Buonasera cari radioascoltatori e bentornati ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre, sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio un saluto da Annalisa e in regia il nostro direttore Roberto Giava. Cari radioascoltatori, questa sera parliamo del recente referendum in Svizzera sulla proposta di vietare la costruzione di minareti nel paese. Più del 57% dei votanti e 22 dei 26 cantoni svizzeri hanno votato a favore di questo divieto. Un no ai minareti che ha fatto discutere e ha suscitato dibattito. Questa sera Giro di Boa ne ha parlato con l'onorevole Magdi Cristiano Allam. L'onorevole Allam è membro del Parlamento europeo, dove è membro della Commissione per la cultura e l'istruzione e vicepresidente della delegazione per i rapporti con Israele. In precedenza noto giornalista, è stato vice direttore ad personam del Corriere della Sera. L'intervista è stata realizzata per Giro di Boa da Maurizio Molinari. Magdi Cristiano Allam, benvenuto a Radio Alma. Buonasera a tutti. Cosa pensa del risultato di questo referendum svizzero? Come lo può commentare riguardo il divieto di costruire, insomma, dei minareti? Ma mi sembra che sia una limpida espressione della volontà popolare che esprime una grande preoccupazione nei confronti della presenza di moschee con minareti, quindi di luoghi di culto che assumono una dimensione identitaria forte. Questa preoccupazione è assolutamente fondata. In Europa abbiamo avuto casi ripetuti che attestano come l'integralismo e l'estremismo islamico abbiano trasformato l'Europa in una roccaforte del terrorismo islamico, al punto che ci sono dei terroristi suicidi islamici con cittadinanza europea e che lo sono diventati dopo aver subito un lavaggio di cervello nelle moschee in Europa, che si sono fatti esplodere prima fuori dall'Europa e il 7 luglio del 2005 anche dentro l'Europa, nel centro di Londra. Ma secondo lei il minareto a livello simbolico è così importante? Perché il minareto non è, diciamo, essenziale perché ci sia un luogo di preghiera islamico, no? Certamente. Certamente, ma infatti ho evidenziato come si tratti di un rifiuto di una dimensione identitaria che si scontra con quelli che sono i valori non negoziabili della civiltà dell'Europa che ha le sue radici giudaico-cristiane e che ha nel cristianesimo il collante valoriale e identitario. Goethe disse che il cristianesimo è la lingua comune d'Europa. Io che sono una new entry nel Parlamento europeo e scopro con orrore che ci sono 24 lingue ufficiali, mi rendo conto che il cristianesimo è ciò che unisce sostanzialmente e che è ciò che deve unire l'Europa per uscire da un baratro che l'ha condotta a sperimentare in modo forse ancora più accentuato che altrove nel mondo la crisi strutturale della finanza e dell'economia globale, è certamente il fallimento di un modello di convivenza dove in assenza di un comune collante valoriale e identitario si è partorito il mostro del multiculturalismo dove ci si immagina e ci si percepisce come se fossimo una landa deserta, senza una certezza sul piano della fede, dei valori, dell'identità, incapaci di esprimere delle regole e nel momento in cui noi ci presentiamo come se fossimo una landa deserta, gli islamici ci percepiscono come una terra di conquista ed è una conquista che è già in atto. C'è però chi dice che il referendum non fosse lo strumento più adatto, cioè chi critica un po' la Svizzera perché lascia decidere queste cose tramite referendum, che può essere un po' visto come uno strumento che per certi versi può dare adito, insomma, a una demagogia. Lei come la vede? Ma mi sembra veramente paradossale che il consulto popolare, l'espressione della libera volontà popolare, possa essere criticata o addirittura percepita come demagogia. Cioè, io mi auguro che l'istituto del referendum propositivo venga esteso a tutti i paesi europei, mi auguro che qui in Italia, sono cittadino italiano e sono orgoglioso di esserlo, diventi anch'esso una realtà. È certamente il modo più diretto per sentire ciò che la gente crede veramente. Ed è l'istituto che più di altri dovrebbe orientare le scelte politiche dei governanti. Secondo lei quali saranno le conseguenze nei rapporti della Svizzera con i paesi a maggioranza islamica e con le comunità islamiche in Svizzera? Ma noi dobbiamo innanzitutto fare una distinzione sostanziale tra la dimensione della religione e la dimensione delle persone. In secondo luogo, dobbiamo comprendere che la convivenza non può prescindere dalla specificità valoriale e identitaria del paese al cui interno avviene la convivenza. C'è purtroppo un relativismo religioso diffuso ed un buonismo diffuso che porta a immaginare che per amare i musulmani si debba sposare l'Islam. C'è una sovrapposizione della dimensione delle persone con quella della religione che è assolutamente incongrua e fuorviante. Io sono assolutamente per amare le persone. Ma sono al tempo stesso consapevole che le religioni sono fisiologicamente diverse. In secondo luogo, mi preoccupa assai il fatto che questa Europa, che è un'Europa che vive una profonda crisi della spiritualità e in particolar modo della cristianità, un'Europa che ha perso la certezza dei propri valori, che rinnega la propria identità, che si vergogna delle radici giudaico-cristiane che rappresentano la verità storica della civiltà occidentale, della civiltà europea e anche occidentale, e finisce per sottomettersi all'ideologia dell'islamicamente corretto. Fate ad esempio attenzione al fatto che sui giornali i nomi delle religioni vengono scritti con la lettera minuscola. Ebraismo con la E minuscola, cristianesimo con la C minuscola, solo Islam viene scritto con la I maiuscola. Non si comprende la ragione di questa eccezione, di questo eccesso di riguardo nei confronti dell'Islam. La ragione è nella paura che l'Europa ha maturato nei confronti dell'Islam, al punto che si diventa più islamici degli stessi islamici. A me spaventa la realtà di una chiesa che, anziché predicare il cristianesimo, tende a difendere le moschee e a legittimare l'Islam. Mi spaventa la realtà di una conferenza episcopale svizzera che si era schierata a favore dei minareti prima dell'indizione del referendum e che poi ha espresso la propria condanna del esito del referendum, così come mi preoccupa l'aver letto sull'Osservatore Romano, quindi sull'organo ufficiale della Santa Sede, che i minareti sono pari alla croce. No, non sono pari alla croce. La croce è la realtà sul piano della fede e sul piano identitario dell'Europa. I minareti sono altro, non appartengono a questa civiltà ed oggi sono un simbolo di una realtà fortemente conflittuale con i valori non negoziabili a cui noi facciamo riferimento come civiltà dell'Europa ed è una preoccupazione che sussiste in primo luogo nei paesi islamici. Nei paesi islamici le moschee sono guardate a vista. Ci sono stati casi ripetuti di moschee prese d'assalto dagli eserciti islamici perché vi hanno individuato dei covi di terroristi e arsenali di armi. In Europa la realtà della moschea è stata mitizzata, così come la realtà dell'Islam viene mitizzato. Il relativismo ci fa mettere le religioni, le culture, i valori sullo stesso piano a prescindere dai loro contenuti. Abbiamo messo in soffitta la ragione e finiamo per legittimare un Islam senza voler entrare nel merito di ciò che si predica nel Corano e senza entrare nel merito di ciò che ha fatto Maometto. Se mi passa la battuta, lei è più cristiano dei cristiani, insomma, perché se addirittura è così critico nei confronti delle posizioni della Chiesa Cattolica, è un po' come lei diceva, cioè che noi rischiamo di essere più islamici degli islamici stessi, lei qui è un po' più cristiano addirittura della Chiesa Cattolica. Ma la Chiesa cattolica purtroppo non è una realtà unita. Purtroppo nella Chiesa cattolica ci sono anime diverse e mi rammarica il fatto che sembra prendere il sopravvento un'anima relativista, un'anima buonista. Ma certamente non è la posizione del Papa Benedetto XVI, che ha sempre condannato il relativismo, che ha scritto nella lettera pubblicata come prefazione dell'ultimo libro di Marcello Pera, ha scritto che il dialogo tra le religioni non è possibile perché mette tra parentesi la fede e che l'unico dialogo possibile è a livello culturale tra le persone. Quindi bisogna distinguere delle realtà diverse all'interno della Chiesa. Immagino che anche lei sia convinto che il dialogo fra le religioni non sia possibile, ma allora è possibile almeno un'integrazione, diciamo. Ma certamente, allora intendiamoci, il dialogo non è mai tra le religioni, non sono il Corano e i Vangeli che dialogano. Il dialogo è sempre e comunque tra le persone e queste persone vanno contestualizzate nel tempo e nello spazio. Quindi il dialogo è un ponte tra persone. Ed è un ponte che deve essere collocato in un tempo e in uno spazio ben definito. Significa che se parliamo di dialogo e di convivenza in Svizzera, noi non possiamo prescindere dalla specificità del popolo e della terra svizzera, non possiamo prescindere dal fatto che la croce è nella bandiera svizzera, è il simbolo della Svizzera. E pertanto non possiamo accettare qualsiasi istanza che viola i valori non negoziabili che sono il fondamento della civiltà europea, intendo la sacralità della vita, intendo la dignità della persona, intendo la libertà di scelta, tra cui la libertà religiosa si colloca in primo piano. Ebbene, questi valori non negoziabili non sono parte della realtà di un Islam che fa riferimento al Corano e che fa riferimento a un Maometto, ma possono certamente essere parte del vissuto di musulmani moderati, musulmani che vivono nel rispetto delle leggi, delle regole e che condividono questi valori non negoziabili. Quindi io sono stato musulmano per 56 anni e sono perfettamente consapevole che i musulmani come persone possono essere moderati, ma al tempo stesso ho preso atto del fatto che l'Islam come religione non è moderata. Un'ultimissima domanda, a livello didattico, a livello di scuole, Sì. cosa si potrebbe fare secondo lei per creare questo dialogo fra persone, in questo caso fra giovani, fra Certamente. bambini addirittura? Allora, la formazione deve partire da certezze interiori. Noi dobbiamo sapere chi siamo. Il problema vero dell'Europa oggi è che non è in grado di dare una risposta esauriente alla domanda fondamentale chi siamo. Questa è un'Europa che si vergogna di se stessa, si vergogna della propria storia, della propria identità, della propria fede. È un'Europa che, come scrisse allora cardinale Ratzinger, prima di diventare Benedetto XVI nel 2004, è un'Europa che odia se stessa, perché è più incline a assecondare le istanze altrui che non a difendere la propria fede, i propri valori, la propria identità. La formazione deve iniziare con il trasmettere delle certezze sul piano della fede, dei valori, dell'identità e delle regole. Se noi non siamo forti dentro, noi non potremo mai rapportarci positivamente, costruttivamente, amorevolmente con il prossimo. Quindi i crocifissi devono essere ben presenti ovunque, in tutte le scuole, in tutti i luoghi pubblici, perché sono la realtà viva dell'Europa. Ed è soltanto con la certezza della nostra identità cristiana che noi potremo rapportarci in modo costruttivo e amorevole con i musulmani, con i buddisti, con tutti coloro che hanno religioni o ideologie diverse. Ma è quando noi siamo fragili dentro, quando noi non abbiamo più la certezza di nulla, quando arriviamo a immaginare che sia un bene che non ci sia la verità, perché ognuno sarebbe depositario di una verità che va messa sullo stesso piano, e a quel punto noi cresciamo una generazione che è disorientata, che non ha più punti di riferimento, che ha perso la nozione stessa delle regole, del dovere. Noi finiamo per essere, noi adulti finiamo per essere autorità morale, adulti sia nell'ambito della famiglia o della scuola o dei mezzi di comunicazione di massa o della politica. Ecco, questo è il processo educativo che è necessario avviare affinché prima si sappia chi siamo, si dia una risposta esauriente alla domanda identitaria. E successivamente si possa interagire positivamente, costruttivamente, amorevolmente con il prossimo. Ringraziamo l'onorevole Magdi Allam e lo Magdi invito. Cristiano Allam. Ringraziamo l'onorevole Magdi Cristiano Allam di essere stato ai microfoni di Radio Alma e auguriamo che questo dialogo possa effettivamente essere costruito, insomma. Certamente, certamente. Dipende da noi, dipende da noi. Siamo noi i protagonisti di questo percorso e sono certo che nel momento in cui arriveremo a toccare il fondo ci sarà un sussulto d'orgoglio che ci porterà ad assumerci la responsabilità storica di riscattare la civiltà dell'Europa da un suicidio in cui siamo incamminati a causa del relativismo e del buonismo e del laicismo. Siete tornati in diretta, cari radioascoltatori. Questa sera abbiamo commentato, abbiamo parlato del recente referendum in Svizzera sulla proposta di vietare la costruzione di minareti nel paese. Ne abbiamo parlato con l'europarlamentare Magdi Cristiano Allam, il quale è stato intervistato per Giro di Boa da Maurizio Molinari. È tutto per questa puntata di Giro di Boa. A risentirci a giovedì prossimo.